Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medios, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. La domanda di questa settimana, dalla quale come sempre cominciamo, è proprio carina. Vedo qua Alberto e Chiara, vi piace? È bella. Sì, sì, sì. Tutte le domande, devo dire, quelle che ci arrivano sono carine. Sì, sono tutte belle, sono tutte belle. Però questa è proprio più carina. Sì, perché parla di semi. Soprattutto sì. Arriva da un giovane ascoltatore, questo a noi ci piace molto. Vabbè, va ma bene, dopo via, daremo titoli i contatti. E poi benvenuti a Möbius, i titoli e poi cominciamo. Come fanno i semi a sapere quando devono germogliare? È questa la domanda botanica di Damiano, un giovane ascoltatore. Gusta il suono è il bizzarro esperimento messo in piedi dal Conservatorio di Trieste, perché fare i biscotti non è mai stato così musicale. Questa volta l'assegnazione del premio Nobel per la fisica è proprio un gran problema. A chi darlo, oltre a Mr. X? I computer consumano troppa energia. Parte un progetto europeo per ridurre drasticamente i consumi. Eccoci qua. Allora, dai, via diamo con i contatti. Questa domanda. No, io darei prima i contatti perché così almeno gli ascoltatori riescono a mandarci le loro domande. Allora, iniziamo con la mail moebius@radio24.it. E poi Facebook Möbius Scienza, Möbius Scienza. E poi c'è anche Twitter che è moebius_online. E ora veniamo alla domanda del nostro giovane ascoltatore che si chiama Damiano. Io e la mia famiglia abbiamo mangiato delle sorbe. Mio padre ne ha piantato dei semi in un vaso, ma non è ancora cresciuto niente. La mamma dice che bisogna aspettare la primavera. Ma come fanno i semi delle piante a sapere quando devono germogliare? Allora, come fanno i semi delle piante a sapere quando devono germogliare? Lo chiedi a noi. Abbiamo qui Donato Chiatante, ordinario di botanica ambientale applicata all'Università dell'Insubria. Buonasera, professore. Buonasera. Buonasera, Chiatante. Allora, come fanno? Come se ne accorgono? Dunque, loro se ne accorgono perché, sentono alcune condizioni ambientali, quindi sono capaci di sentire la temperatura, di capire se l'acqua nel terreno è abbondante, se ci sono i sali minerali giusti per la nutrizione, e quindi questo assieme di condizioni fa sì che decidano che sia arrivato il tempo di germinare. Se questi fattori non ci sono, ovviamente la pianta rimane in uno stato che può essere chiamato di dormienza, di sonno. Ecco, ma se non le sentono anche per 1 o 2 anni, resta così, fermo, non germoglia? Non germoglia, sì. Ah. E in questo stato di dormienza può rimanere per un certo periodo, anche piuttosto lungo, anche di qualche anno. Quindi come sentono le condizioni favorevoli di temperatura, eccetera, diciamo, chiamiamoli così, primaverili, sentono anche quelle invernali però, quindi il freddo e che le pone in questo stato appunto di letargo come per gli animali. Sì, certo. Cioè, questo fenomeno viene chiamato vernalizzazione, cioè è un meccanismo per cui la pianta riesce anche a sentire il freddo, a capire che ha attraversato un periodo di freddo e questo gli serve per capire che si stanno avvicinando le condizioni ideali per germinare, quindi alcune piante devono per forza aver attraversato un periodo di freddo prima di poter germogliare. Cioè, quindi, se anche ci sono le condizioni per cui potrebbero germogliare, ma non hanno passato l'inverno, restano lì, certamente, continuano a dormire. Esattamente, proprio il meccanismo è proprio questo. Messe anche in condizioni di avere i fattori ambientali, l'acqua, la temperatura, i sali minerali e tutto, però se prima non hanno attraversato un periodo di freddo, che si chiama vernalizzazione, la dormienza, il sonno non viene interrotto. Quindi l'inverno è una specie di interruttore, ma qui mi viene in mente una domanda adesso perfida: se noi gli facciamo sentire il freddo, quindi accendiamo l'interruttore, ma poi continuiamo a stare nel freddo, loro dopo 4 mesi di freddo partono? Allora, se noi gli abbiamo fatto attraversare il periodo di freddo, loro aspettano soltanto che ci siano gli altri fattori, quindi appena possibile germinano, appena c'è la disposizione dell'acqua, della luce, della temperatura ideale, loro partono. Al nostro piccolo Damiano dobbiamo dare un consiglio, allora. Di recuperare qualcuno dei semi e metterlo in frigo? Certo, il frigo è senz'altro un'alternativa che viene usata anche, diciamo, normalmente negli esperimenti di laboratorio o anche nelle serre. Diciamo che si può sostituire il freddo della natura invernale con un certo periodo più o meno lungo, si parla di un paio di settimane, 3 settimane in un frigorifero, dopodiché i semi possono essere pronti a germinare quando gli altri fattori ambientali lo consentono. Beh, quindi è un meccanismo molto intelligente il seme, nel senso che può sentire, no? Apriamo l'interruttore, senti il freddo, però se non arriva acqua, non arriva temperatura, lui quell'interruttore lì lo spegne. Ha dei sensori naturali. Certo, hanno questi meccanismi, sono dei veri e propri sensori naturali, di solito sono di tipo chimico e questi sensori servono, direi, anche oltre che sensori anche misuratori, perché riescono proprio a calcolare la quantità di acqua, riescono a calcolare la temperatura esattamente, quindi sono meccanismi molto precisissimi, precisissimi. Ecco, allora caro Damiano, mettili in frigo 2-3 settimane e poi li tiri fuori, li tieni in casa e vediamo che qualcosa, magari, anzi facci sapere. Ma solo qualcuno, altri si possono lasciare nel vaso e vedere cosa succede, così cosa succede? Si vedono le il vaso differenze. Di controllo. Ma chiatante, ci sono anche dei semi un po' stupidoni che sentono il freddo e partono? Ci sono dei semi che praticamente non hanno una dormienza, ma hanno praticamente un meccanismo, diciamo, artificiale, nel senso che hanno addosso una specie di corazza che ha bisogno di invecchiare, di rompersi con il tempo prima di poter liberare l'embrioncino e quindi permettere la germinazione. E ovviamente questo dipende dalla specie. Questo dipende dalla specie, cioè si chiama tegumento questa specie di ricopertura che ha il seme. Finché il tegumento rimane integro, il seme all'interno non riesce a germinare. Cioè non ha più questa sonnolenza, questa dormienza. Se non viene intaccata la corazza, il seme rimane imprigionato, costretto a rimanere all'interno. Quindi non ha bisogno di sentire questi fattori, ma semplicemente quando si rovina il guscio e l'acqua può entrare, lui germina. Esattamente, sì. Questo è un altro meccanismo per ingannarli. Va bene, grazie chiatante. Allora le faremo sapere se alla fine il sorbo di Damiano germoglierà. È va fiorito. Bene. Grazie, buona serata. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Eravamo a Trieste la scorsa settimana, dove si parlava di tecnologia, in particolare di alimentazione, e Chiara Albicocco, dove mi è finita? Al conservatorio. Voi direte, cosa c'entra? Sì, c'entra. Ascoltate Chiara Albicocco. Pochi metri dalla piazza entriamo in un palazzo comunale e qui ad attendermi c'è Pietro Polotti, che è un docente della Scuola di Musica e Nuove Tecnologie del Conservatorio di Trieste, e avete allestito qui insieme agli studenti un'installazione che si chiama Gusta il suono, cioè avete fatto questo connubio tra musica e alimentazione, che è poi il tema di Next Trieste di quest'anno. Sì, più che tra musica e cibo, quello che abbiamo fatto è un collegamento tra suono e cibo. Siamo partiti dall'idea che il mangiare è un'esperienza multimodale, cioè che include e coinvolge tutti i sensi, l'olfatto innanzitutto accanto al gusto, ma anche la visione, come il cibo si presenta alla vista è importante, e anche il tatto. Quello che costituisce un po' la cenerentola dei sensi nell'esperienza del cibo è il suono. Ci siamo chiesti come poterlo inserire, il suono ha qualche rilevanza quando si tratta di cibi. E quindi cosa vi siete inventati? E quindi abbiamo pensato a come estendere la gamma dei suoni corrispondenti ad azioni, oggetti o alimenti che entrano nell'atto del mangiare. Questo è possibile oggi grazie all'utilizzo di sensori semplici e poco costosi, e ci permettono di controllare il computer e quindi la generazione di suoni artificiali, quali che siano, collegati all'azione di, in questo caso abbiamo realizzato uno scenario di cucina in cui vengono cucinate i biscotti. Ma entriamo nel vivo dell'installazione Gusta il suono, e ci sta aspettando Carlo Marzaroli, che è uno degli studenti e anche attore del progetto. Ciao Carlo. Buonasera. Allora, cosa dobbiamo fare? Allora, noi non vediamo niente, c'è una scatola nera davanti a noi, tu adesso metti le mani. Faccio finta di essere uno degli attori che userà questa cosa che in realtà dopo verrà usata dal pubblico e non da me. Il gioco consiste nel muovere le mani per esempio sul piano e abbiamo un po' di pasta da tirare. Ecco, perché adesso... dobbiamo fare i biscotti. Naturalmente, dobbiamo fare i biscotti e li faremo proprio, veramente dopo anche li cucineremo. Adesso io comincio a stendere la pasta con la mano, lavoro su un piano sensibile che ha sotto appunto dei sensori di forza che dopo vengono trasdotti dal computer. Ecco, io muovendo le mani. Tu in questo momento stai stendendo la pasta frolla. Io sto stendendo la pasta frolla e devo usare, non posso usare la vista, per cui devo usare il tatto, devo usare le mie orecchie per ascoltare i suoni, per cercare di capire se sto facendo un buon lavoro oppure no. Infatti il suono cambierà a seconda di come la pasta è cambiata, se è stirata bene oppure no. Adesso l'ho fatta a mano, adesso prendo un mattarello sempre, sì. E la stendo con il mattarello e sentirete... Cioè, il piano di lavoro ci restituisce dei suoni sempre diversi a seconda del movimento che noi facciamo. Certo, in questo caso il piano e anche il mattarello ha dentro un sensore, un giroscopio, e dà il valore della rotazione, la velocità della rotazione, e viene anche questo analizzato. Tutti questi strumenti hanno dei sensori che vengono trasmessi, i segnali ovviamente dei sensori vengono trasmessi al computer che ce li restituisce con questi suoni. Certo, come ce li restituisce come suono e anche come spazializzazione del suono. Infatti il piano su cui noi stiamo lavorando ha quattro punti di risonanza che reagiscono a seconda del punto dove io agisco con la forza, lì in quel punto in grande risuona. Allora Carlo, procediamo, la pasta è stesa e ci tocca fare le forme. Naturalmente abbiamo quello che noi chiamiamo un portaformine che appunto contiene le formine per fare i biscotti, a seconda della forma che io alzo avremo... Tu e io non le vediamo, quindi ne abbiamo alzata una a caso. Io non so ancora cosa possa essere, però nel momento in cui faccio forza sul piano... Premi sulla pasta con la formina, che cos'è questo? Un gong? Cos'è? Questo è un gong, infatti la formina che ho in mano è quella della campana. Ah, oppure... bellissimo, proviamone un'altra. Che suono soave, cos'è? Prova a metterla sulla pasta. Scusa, che suono è questo? È una stella, adesso quel rumore tipo saldatrice è la stella cometa. Ah, ecco. Vabbè, siete anche fantasiosi, va bene. Proviamone un'altra, ecco questa qua, sì. Ha in mano una forma a cavallo, mi pare. Già, non so come hai fatto capire, però quella è proprio. Tutto restituito dai suoni, ok. E una volta che abbiamo le nostre forme, che dobbiamo fare? Una volta che abbiamo le nostre forme andiamo a infornarle, naturalmente, per cui ci spostiamo. Andiamo. Andiamo a metterle chiaramente nel forno, per cui dobbiamo mettere prima una carta. Vabbè, certo, la carta da forno, non so, ci si attaccano. Ecco, hai strappato un pezzettino di carta da forno dal rotolo e ora bene, le inforniamo. Ora le inforniamo, ecco, le inforniamo. Abbiamo un forno che anche lui ha una risposta interattiva, dato che il tema di oggi è non solamente il mangiare, ma anche il valorizzare il mangiare, valorizzare il cibo, evitare lo spreco, anche l'energia che si spreca per fare da mangiare. Allora abbiamo creato questo forno che ha sopra una coibentazione artificiale che abbiamo creato noi, proprio perché questo è un forno di quelli che costano poco, ha uno spreco notevole, infatti quando cucina si scalda tantissimo. Disperde tantissimo calore. Noi abbiamo creato dunque un isolamento artificiale fatto da noi con un sensore di temperatura, facciamo vedere la differenza fra la parte coibentata e quella no, sempre collegato al computer, e facciamo vedere anche, abbiamo creato una zona non coibentata che contiene un pentolino con della cioccolata fusa che dopo metteremo sopra i biscotti. Cioè col calore disperso voi ci sciogliete la cioccolata. Ricicliamo il calore disperso in maniera dolce ed efficace. Senti Carlo, i nostri biscotti sono pronti, non vogliamo metterci un po' di zucchero a velo? Anche lui, diciamo, naturalmente interattivo e... anche lui fa il suo lavoro di risposta al movimento. Alla stessa maniera della scatola che alla fine conterrà biscotti. Certo, perché alla fine dobbiamo raccogliere tutti questi biscotti. I biscotti vengono raccolti e vengono anche mangiati, insomma, auspicabilmente. Qui la nostra scatola raccoglie i biscotti, in cui una volta che i biscotti sono posti, dopo un po' che nessuno va lì a mangiarli, lei comincia a fare dei suoni... sgradevoli, proprio per ricordare che c'è una data di scadenza. Però anche lei ha un sensore, quando io inserisco la mano parte una melodia. Quando inserisce la mano parte un suono gradevole. Va bene, grazie mille Carlo, buona idea. Da Trieste Next della scorsa settimana ci spostiamo ora a Bergamo, dove si è aperto giovedì scorso, il 5 ottobre, Bergamo Scienza, il festival della scienza della città di Bergamo. Durerà fino a domenica 21 e quest'anno festeggia il 10° compleanno. Insomma, 2 settimane di conferenze, laboratori, mostre, incontri con ricercatori sia italiani che internazionali. E noi abbiamo pensato di segnalarvi qualche evento particolare. Ci sarà per esempio Guido Tonelli, che racconterà i progetti di ricerca del CERN e l'osservazione del bosone di Higgs, di cui parleremo tra poco. 3 premi Nobel a parlare di medicina e fisiologia, e tra loro anche James Watson, uno degli scopritori della celebre struttura a elica del DNA. E poi Jan Wilmuth, il papà della pecora Dolly, parlerà appunto di genetica e di clonazione. E Samir Zeki, dello University College di Londra, terrà un incontro dedicato niente meno che alla neurobiologia della bellezza. Forse meno conosciuto, ma comunque un personaggio fondamentale per la storia dell'informatica, è il fisico italiano Federico Faggin, inventore del primo microprocessore. Si parlerà anche di astronomia e di vita nello spazio, con Giovanni Bignami e i ricercatori dell'ESA. E More Space to Space, più spazio allo spazio, è il titolo della mostra interattiva dedicata ai segreti dell'universo e al mondo degli astronauti e delle missioni spaziali. Quindi tanta scienza declinata in tante forme diverse, anche attraverso concerti, spettacoli teatrali e tanti eventi anche di musica. Per esempio, quello che sentite in sottofondo è Michael Jackson, non lui, è Enrico Rava che interpreta Michael Jackson. Enrico Rava, celebre trombettista jazz, sarà presente il 14 ottobre con un omaggio appunto a Michael Jackson. Gli appuntamenti sono tanti, ve lo ricordiamo, è iniziato il 5 di ottobre e finirà il 21. Per chi volesse approfondire e trovare il programma completo, bergamoscienza.it. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Martedì 9, 11:45. Che cosa succederà? Ne parlo subito con Barbara Gallavotti. Ciao Barbara. Ciao Federico, buonasera a tutti. Allora, martedì 9, 11:45, la proclamazione del Nobel della fisica per il 2012. Che sarà uno dei più intricati della storia recente. Sono usciti anche degli editoriali su riviste importanti come Science che dicevano che quest'anno sarà veramente dura e complessa l'assegnazione. Come mai? Ma almeno potrebbe esserla se decideranno di premiare il bosone di Higgs, che tutti percepiscono essere la scoperta dell'anno, forse anche qualcosa di più dell'anno. Però non è detto che andrà proprio al bosone il premio. Insomma, come al solito, prima del Nobel i giochi sembrano essere sempre apertissimi, ma quest'anno forse le aspettative sono più tese del solito. Molto più del solito. Ne parliamo con Fabio Zirner, fisico teorico all'Università di Padova e presidente del Comitato Scientifico del CERN. Buonasera Zirner. Buonasera a voi e agli ascoltatori. Allora, perché quest'anno dovrebbe essere ancora più intricata? Credo che il tema sia sempre lo stesso, e cioè quanti Nobel si devono dare. Sì, nel caso in questione stiamo parlando del premio Nobel della fisica. Della fisica, certo. Ora, quest'anno ci sarebbero 2 possibilità che vengono alla mente in relazione alla fondamentale scoperta del bosone di Higgs. Se si volesse premiare la teoria che spiega l'origine della massa delle particelle elementari, i tempi tecnici ci sarebbero. Sì, lei diceva i tempi tecnici, cos'è che intende esattamente per questo? Beh, la procedura di selezione dei candidati per il premio Nobel è ben stabilita dalle regole. A settembre dell'anno precedente il comitato Nobel invita più di 1 migliaio di scienziati a nominare dei candidati entro la fine di gennaio dell'anno successivo. Okay. Poi a febbraio il comitato procede ad una prima scrematura delle segnalazioni ricevute, da marzo ad agosto approfondisce l'esame delle candidature rimaste in lista, consultandosi in via strettamente riservata con degli esperti esterni, e alla fine del lavoro, in settembre, inoltra un rapporto scritto all'Accademia Svedese delle Scienze e formula delle raccomandazioni su una lista ristretta di candidati. Okay. Poi in ottobre, e quest'anno il 9 ottobre, cioè martedì prossimo, l'Accademia vota a maggioranza i vincitori. Solo nella rosa dei candidati proposti dai più di 1000 esperti da cui accennava. I candidati sono nella rosa, ma va tenuto presente che anche i membri del Comitato Nobel hanno il diritto di nominare candidati. Quindi una scoperta fatta, annunciata a luglio, lei dice avrebbe i tempi tecnici per essere premiata a ottobre, perché comunque è una qualcosa di molto atteso che affonda le radici in ricerche fatte per decenni e quindi sicuramente gli esperti consultati l'anno prima non avranno dimenticato di inserire Higgs and Engelmann, purtroppo Brut non c'è più, nella rosa dei possibili premiati. Ma stavo dicendo prima che ci sarebbero due possibilità per l'assegnazione del premio. Uno è il premio alla teoria, e in questo caso non ci sono dubbi che tutti gli elementi per giudicare erano già presenti al momento della scadenza della possibilità di fare segnalazioni, perché gli aspetti generali della teoria sono già stati confermati negli ultimi vent'anni e la scoperta del bosone di Higgs dal punto di vista della teoria è solo la ciliegina sulla torta che ci illumina sulla realizzazione concreta di questa teoria generale. E se invece volessero premiare la scoperta sperimentale, cosa si potrebbe fare? Se invece si volesse premiare la scoperta sperimentale del bosone di Higgs, dobbiamo tenere presente che questa è stata annunciata in via preliminare dalle collaborazioni sperimentali Atlas e CMS il 4 luglio scorso e formalizzata in pubblicazioni scientifiche soltanto alla fine di luglio. Quindi in questo caso probabilmente, ma non si può essere sicuri, non ci sarebbero i tempi tecnici e bisognerebbe attendere il prossimo anno. Senta, ma ai tempi di Rubbia però, nell'83, lui prese il Nobel subito dopo, insomma, praticamente, la verifica sperimentale, no? C'erano i tempi che combinavano? Al tempo della scoperta dei bosoni W e Z fu possibile identificare due figure chiave nella concezione, nella realizzazione dell'intero progetto che condusse alla scoperta. In questo caso fu possibile identificare Carlo Rubbia e Simon van der Meer. I tempi tecnici, se ricordo bene, quella volta c'erano, ma l'aspetto difficile è, a causa delle regole del premio Nobel che impongono per la fisica fino ad un massimo di 3 vincitori, certo, identificare un numero di vincitori minore o uguale a 3. Per questo mi chiedevo, ma è pensabile che venga premiata la scoperta sperimentale? La scoperta sperimentale merita di entrare nei libri di storia e non solo in quelli di storia della fisica, però è il risultato di uno sforzo ventennale che ha visto coinvolti migliaia di fisici, di ingegneri e di tecnici. Ora, sicuramente tra queste migliaia di persone ce ne sono alcune che spiccano e che sono ormai ben note al pubblico, come gli italiani Fabiola Gianotti, che è attuale coordinatrice dell'esperimento Atlas, e Guido Tonelli, che è stato coordinatore dell'esperimento CMS fino alla fine del 2011. Ma sarebbe difficile lasciar da parte almeno un'altra decina di figure chiave, tra cui anche altri italiani, che hanno progettato e realizzato l'acceleratore LHC, gli esperimenti Atlas e CMS e gli strumenti di calcolo utilizzati per raccogliere ed analizzare i dati. Alla fine io credo che sia giusto considerare la scoperta sperimentale del bosone di Higgs come una stupenda impresa collettiva. E dare il Nobel ai teorici. Entrambe le scoperte, sia la scoperta della teoria che la scoperta sperimentale del bosone di Higgs, corrispondono a risultati scientifici di altissimo livello. È solo il regolamento del premio Nobel che probabilmente rende difficile ricompensare adeguatamente la scoperta sperimentale. Forse il Comitato Nobel, intervistando i protagonisti e i testimoni della vicenda, potrebbe riuscire ad identificare fino a un massimo di 3 persone che svolsero un ruolo chiave così come quello di Carlo Rubbia e Simon van der Meer all'epoca. Io non ci riuscirei personalmente. Solo che andando avanti di questo passo sta diventando una cosa un po' stramba, no? Insomma, è come se le regole per assegnare l'Oscar per il miglior attore richiedessero che però sia figlio, che ne so, di mamma italiana e padre tedesco. Cioè sta diventando qualcosa che stride sempre di più, mi pare di capire, insomma questo è quello che dicono gli osservatori, con la realtà dei fatti. Questo è il problema. La ricerca sempre più collettiva diventa sempre più difficile individuare al massimo tre protagonisti. Soprattutto nella fisica delle particelle, insomma. Altre organizzazioni si sono adeguate al mutare dei tempi, per esempio la sezione di fisica delle particelle della Società Europea di Fisica distribuisce un premio che, pur non così noto come il premio Nobel, è molto ben considerato negli ambienti della scienza, ed in quel caso il regolamento consente di assegnare il premio collettivamente ad una collaborazione scientifica. È già successo nel passato. Credo che per quest'anno sia impensabile modificare lo statuto all'ultimo momento. Ma in linea teorica, ma questo... questa è l'occasione in cui varrebbe la pena modificarlo, oppure tutto sommato, avendo comunque due teorici chiaramente meritevoli, si può andare avanti così? Se si deciderà di assegnare il premio ai due teorici, la loro teoria è un capolavoro dell'ingegno umano e penso che il premio sarà altamente meritato. Allo stesso tempo pongo a tutte e due una riflessione di tipo psicologico e sociologico. Certo che se il Nobel diventa una roba che ogni anno lo vincono in 20-30, e beh, probabilmente il suo fascino un po' lo perde, no? Perché ha un valore, l'unicità. Sicuramente, io penso che sia sicuramente così, soprattutto perché il Nobel ha la caratteristica anche di creare degli eroi scientifici. Sì, non possono essere troppi. Un riferimento che è chiaro che se venisse dato a un'istituzione come il CERN avrebbe sicuramente un grosso valore emotivo sul pubblico, ma non sarebbe più la stessa cosa. Non creerebbe più dei punti di riferimento umani. Questo è un problema grosso per tutti i premi, è d'accordo Zwinnen? Sì, sono d'accordo, il contributo individuale e l'esistenza di modelli individuali è fondamentale anche per suscitare lo spirito di emulazione nelle giovani generazioni. Però la contraddizione esiste. Va bene, grazie, grazie Zwinnen e buona ricerca. Arrivederci. Ciao Barbara. Ciao Federico, buonasera a tutti. Era giugno del 1972. Barry Commoner, biologo americano, diceva queste cose. When you make a man-made substance which is not present in living things, the very fact that it's not present is likely to... Quando una sostanza è prodotta da noi umani, una sostanza che non è presente nelle cose viventi, il dato di fondo connesso al fatto che non c'è questa presenza è che essa non è comparabile con le cose viventi. Are exposed to chemicals that living things have never been exposed to. E allora i lavoratori che la maneggiano sono esposti a una nuova struttura chimica e noi che mangiamo del cibo che contiene additivi siamo esposti a sostanze chimiche alle quali il vivente non è mai stato esposto. Sono passati 40 anni, il 30 settembre scorso, a 95 anni, Barry Commoner ci ha lasciato. Si dice, giustamente, che gli dobbiamo la comprensione diffusa, diventata patrimonio di tutti ormai, che il nostro pianeta è un ecosistema. Ecologia era una parola sostanzialmente sconosciuta, se ne parlava da alcuni anni, questo sì, ma fu Barry Commoner che la trasformò in un messaggio che suggeriva azione, progetti di cambiamento, necessità di guardare in modo completamente nuovo al nostro rapporto come specie con la realtà che ci circonda. Perché sarebbe bene tenere presente che non c'è mai stata un'epoca nel passato nella quale siamo stati sensibili all'ambiente, tutt'altro, anzi, solo che si combinavano meno guai perché eravamo pochi e perché avevamo meno strumenti. E non è nemmeno passato molto tempo da quei tempi di spensierata incoscienza. Proprio nel 1972, l'anno a cui risale questo messaggio di Commoner che avete sentito all'inizio, veniva pubblicato il rapporto sui limiti dello sviluppo, la prima riflessione da cui discendeva un interrogativo fondamentale. Possiamo pensare che sia possibile una crescita indefinita senza che le risorse e l'ambiente tutto restino infinitamente disponibili? Bene, qui da noi quel rapporto fu singolarmente attaccato da tutto il pensiero politico, dall'estrema sinistra all'estrema destra. Pensate come era così tanto lontana l'ecologia dal sentire comune. Oggi abbiamo capito molte cose, per fortuna, anche se la partita si è fatta difficile. Però sappiamo, no, cosa fare. Cerchiamo di darci dentro, allora. Medios, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. I computer consumano troppo, molto meno di altre apparecchiature, certamente, però sono tanti. C'è modo di renderli meno energivori? La risposta può arrivare da un progetto europeo presentato a Roma questa settimana. Il nome del progetto è Guardian Angels e ne parliamo con Marco Affronto, che è qui con noi. Buonasera Marco Affronto. Sì, buonasera. Lei è un nanotecnologo dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Il nome del progetto Angeli Custodi nasce dal fatto che un primo suo obiettivo è quello di progettare sistemi di alimentazione di quei sensori che stanno per essere adottati su vasta scala. Sono piccoli sensori che catturano i segnali provenienti dal nostro corpo, li inviano a centri ospedalieri che permanentemente tengono sotto controllo una patologia, per esempio una cardiopatia di una certa complessità. E allora cominciamo da qui. Ma allora il progetto per 10 anni, che coinvolge diverse industrie e anche istituti di ricerca e università europee, abbiamo previsto 3 fasi lungo questi 10 anni. La prima fase di 3 anni, che ha degli obiettivi abbastanza concreti per la realizzazione di dispositivi specifici, e poi dei progetti invece più ambiziosi che si svilupperanno prima su 7 anni e poi su 10 anni. In realtà, oltre alla motivazione che diceva lei, che è quella che ovviamente è più interessante per il pubblico, però diciamo che il progetto nasce proprio dal mondo dell'elettronica, diciamo così. Sì. Quindi la rivoluzione può essere vista anche da questo punto di vista qui, ovvero sia si tratta di fare una nuova concezione di dispositivi elettronici completamente nuovi e basati sul risparmio energetico e il basso consumo, e quindi disegnare poi dei dispositivi che siano anche portabili, siano anche disponibili su singoli individui, che possono funzionare per dei tempi molto più lunghi rispetto a quello che abbiamo ora con la normale e convenzionale alimentazione a batteria. Noi siamo partiti dalla sensoristica perché questo tipo di apparecchiature comunque sono alimentate a batteria, mentre invece in questa direzione potremmo avere dei sensori che sono alimentati, l'energia se la prendono perché per esempio è generata dal movimento del corpo. Ma esatto, l'obiettivo è proprio quello di eliminare le batterie, che comunque sia hanno una durata finita, e invece andare su un concetto diverso, che è quello di acquisire l'energia direttamente dall'ambiente in maniera continua. Quindi per questo ci sono 3 obiettivi particolari, 3 sviluppi tecnologici particolari. Il primo è quello di sfruttare una nuova generazione di celle solari molto piccole e molto efficienti, tant'è vero che l'obiettivo è quello proprio di usarle anche in ambienti chiusi, come può essere quello dove si trova un paziente, quindi non esposto direttamente ai raggi solari, ma si parla anche di forme di energia prese dall'ambiente anche completamente nuove, ovvero sia acquisire dell'energia meccanica, quindi anche solo dal movimento del corpo umano, come poteva essere il vecchio concetto degli orologi a polso. Qui si tratta di sfruttare il movimento del corpo umano per invece produrre dell'energia elettrica quanto basta per alimentare i sensori e poi anche i sistemi di acquisizione e trasmissione elettronici. L'altra cosa, anche questa è particolarmente innovativa, si pensa di sfruttare anche le differenze di temperature che ci possono essere tra il corpo umano e l'ambiente esterno. Anche questo è un settore particolarmente innovativo, che parte anche questo dalle nanotecnologie e poi si sviluppa invece su sistemi di acquisizione dell'energia più complesse, quindi architetture più complesse, però anche questa è particolarmente innovativa perché si tratta di sfruttare delle piccole differenze di temperatura, quali possono essere quelle tra il corpo umano e l'ambiente, per produrre anche qui energia elettrica. Quindi l'obiettivo finale è quello poi di integrare queste tre forme, queste tre sorgenti, diciamo così, di energia, e quindi acquisire in maniera complementare dell'energia dall'ambiente. Questo si può fare utilizzando, cominciando a pensare a architetture nuove, a transistor di nuova generazione, ma anche a materiali di nuova generazione e architetture elettroniche anche particolarmente innovative che attualmente non ci sono, non vengono utilizzate dall'industria elettronica. Perché siamo entrati in un'era in cui stiamo tutti apprendendo come l'energia elettrica può essere derivata da un'infinità di cose diverse, e le nanotecnologie aprono in particolare queste tante porte verso sorgenti, modalità di produrre energia diversamente. Torniamo allora magari al tema più generale. I nostri strumenti elettronici che abbiamo, per quanto compatti, consumano tanto. Sì, questo è un problema che è abbastanza noto nell'ambito dell'elettronica, forse meno noto nell'ambiente comune, però è il problema principale per cui l'elettronica ora deve far fronte a questi problemi qua, perché il problema ad esempio di sviluppare processori sempre più potenti è strettamente legato al fatto di avere anche dei processori che poi non scaldano. Il problema principale ora di un computer, e questo lo possiamo toccare anche con mano, è che questi scaldano tantissimo. Gran parte dell'energia della batteria va in realtà persa per calore. Per me l'obiettivo del progetto è proprio quello di abbassare questa energia persa e di ridurla di un fattore 1000. Si pensa che ora un processore elettronico, insomma, scalda a una temperatura di lavoro molto elevata, e questa qui può essere paragonata a generalmente l'energia che viene dissipata per svolgere un'operazione elementare è quella equivalente a una temperatura di migliaia di gradi, mentre invece l'obiettivo del progetto è proprio quello di abbassare notevolmente questa energia persa e di ridurla di un fattore 1000. Un portatile normale in funzione quanto consuma? Possiamo paragonarlo a qualche altro consumo più noto? Ma è dell'ordine di lampadine, insomma, una lampadina vecchia consumava vecchio tipo a tungsteno consumava 100 watt, quelle moderne consumano 10 watt. Qui si sta parlando di dispositivi che consumano dei milliwatt, quindi 10.000 volte meno del consumo attuale. Insomma. Quelle a cui volete arrivare, sì, certo. Sì, sì. Mi pare anche, qui concludiamo, che questo tipo di ricerca sia nell'orizzonte di tutti questi progetti che l'Unione Europea sta cercando di finanziare per diminuire i consumi anche, no? Sì, questo è un problema, può essere legato anche al problema dell'energia, basti pensare ad esempio nelle società più evolute, il dato più oggettivo è quello sugli Stati Uniti, per i quali abbiamo dei dati certi e sappiamo che l'energia che viene consumata ogni giorno negli Stati Uniti, ma questo vale anche in paesi più avanzati, rappresenta il 10% del consumo globale di una nazione, e si prevede nel 2020 i computer, l'energia legata all'alimentazione del computer arriverà a prendere il 20% dei consumi. Marco Fronto, la ringrazio e buona ricerca. Grazie mille. Arrivederci. Sono entrato in una birreria con Fabio Iraldo, docente Bocconi. Buonasera Iraldo, perché mi ha portato qui? Venga, le offro una birra. Andiamo al balcone e le offro una birra alla spina. Una birra alla spina, va bene. L'abbiamo ordinata, cosa succede? Cosa siamo mi fa vedere? Lei si è rilassato naturalmente, male, vuol dire che ha abbassato la guardia. In un gesto quotidiano divertente come questo, naturalmente ciascuno di noi produce un impatto ambientale, non bisogna mai dimenticarlo, nelle scelte quotidiane, anche le più semplici. Vabbè, certo. Bevendosi una birra, sa cosa si porta dietro? No. Beh, intanto quella birra ha dovuto essere consegnata in quel bar attraverso dei fusti di acciaio. Sì, quei bidoni quei bidoni pesanti che richiedono una gran quantità di acciaio per essere prodotti, che contengono birra. Per mettere la birra dentro i fusti di acciaio occorre che lei usi CO2. Sa cos'è la CO2? Eh beh, questo cioè, ormai ahimè, lo tutti, sappiamo. Purtroppo la CO2 è uno dei principali gas ad effetto serra che contribuisce al peggioramento del surriscaldamento del globo. E se ne usano tanti. Per un fusto da 25 litri bisogna usare 25 litri di CO2 per riempire il fusto e poi nel punto vendita, quando la birra si spilla, quella birra esce dal fusto perché viene immessa dell'altra CO2, che poi va persa, e sono altri 25 litri. E poi alla fine della sua vita quel fusto lì, per essere riutilizzato, viene caricato su un bel camion che viene riportato, che lo riporta alla fabbrica di origine, dove viene disinfettato, lavato, vengono sostituite delle parti. E si riparte. E i trasporti si moltiplicano. Va bene, quindi grande produzione di CO2. Adesso entriamo in un bar che potrebbe essere una birreria che potremmo avere anche fra pochissimo, fra pochi anni. Beh, in realtà si può già vedere in qualche birreria molto avanzata. Apparentemente non cambia nulla, la birra viene spillata comunque, ma viene spillata con metodi innovativi, per esempio senza l'utilizzo di CO2. Viene spillata da fusti che non sono più pesanti in acciaio, ma sono leggerissimi, 250 grammi di fusto per contenere ben 20 litri di birra, molto sottili nelle pareti. Ma di che cosa sono fatti? Sono fatti in PET, semplicissimo, quel PET che viene tranquillamente riciclato e recuperato nella gran parte delle città italiane a tassi ormai molto significativi di raccolta differenziata. Sì, plastica, insomma, certo. Ed è molto leggero. E la birra non viene più spillata iniettando CO2 nel fusto, viene spillata di fatto per un fenomeno fisico di caduta. Il fusto in PET è talmente leggero che si assottiglia, si schiaccia, si accartoccia. È la gravità che ci dà la birra. In pratica sì, è la gravità che ci dà la birra. Viene spillata e di fatto si risolve anche un altro problema molto significativo, che è quello degli ingenti quantitativi di trasporti necessari sia per riportare la birra e riempire di nuovo i fusti, sia per la manutenzione degli impianti, eccetera. Tutto ciò è stato reso possibile, già oggi lo sarà ancora di più in futuro, perché un'azienda multinazionale abbastanza famosa ha calcolato l'impronta ambientale dei suoi prodotti e si è accorta che, in modo abbastanza controintuitivo rispetto alle credenze che ciascuno di noi ha, l'utilizzo di un fusto innovativo, molto leggero, in plastica, un materiale che magari ciascuno di noi giudica in alcuni casi più impattante sull'ambiente di altri, avrebbe diminuito in modo molto significativo il peso, il carico ambientale che questo prodotto si portava dietro. In base a queste considerazioni ha riprogettato le proprie catene distributive e ha cominciato a diffondere questa nuova tipologia di spina in moltissimi locali. Stiamo parlando di vantaggi ambientali molto significativi. Qui lei tenga conto che tre fusti di questa nuova tipologia utilizzati al posto di tre fusti tradizionali vuol dire di fatto risparmiare la CO2 che un albero assorbirebbe in un anno di vita. Quindi stiamo parlando di oppure due fusti risparmierebbero la CO2 pari a 5 viaggi in treno Milano-Roma. Ma pensi a lei. Impronte veramente molto profonde sulla Terra. Fortissime. Le impronte molte volte sono irreversibili, perché i fenomeni ambientali che causiamo, semplicemente con la banale scelta di acquisto di un prodotto, poi rimangono indelebili sul terreno per molti anni. Perché ci parla di questo? Io vi parlo di questo perché lunedì prossimo, 8 ottobre, nella mia università, nell'Università Bocconi, in Aula Magna, si terrà un grande convegno internazionale che affronterà di petto il tema dell'impronta ambientale, dei modi che le aziende hanno per calcolare l'impronta ambientale. Moltissime aziende molto conosciute in Italia, anche sul mercato italiano, si stanno muovendo verso questa prospettiva. Quella sarà un'occasione in cui, insieme a Legambiente, insieme all'Istituto di Ricerca Ambiente Italia, con il Ministero dell'Ambiente e molti ospiti stranieri, si discuterà delle metodologie e soprattutto del futuro della certificazione dell'impronta ambientale dei prodotti in Europa e in Italia. Non bevete troppa birra, perché sennò fate una conferenza un po' allegrotta. Grazie, Eraldo. La birra ci sarà, grazie a voi, grazie. Arrivederci, buon lavoro. E come altre volte, in conclusione, devo dirvi che tutte le storie che avevamo da raccontarvi ve le abbiamo raccontate. Ci vediamo qui fra 7 giorni. Buona settimana a tutti e a tutte.